si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati. Si può fare l'antidoto settimanale alla depressione da cattive notizie su Radio 24. Insomma, cerchiamo di invertire il trend con notizie e curiosità, segnalazioni che noi definiamo notizie si può fare. Allora cominciamo subito con qualche notizia della settimana. A Napoli più wifi gratis per tutti in occasione dell'America's Cup World Series di Napoli. Alla villa comunale sono stati installati nuovi punti all'accesso wifi per connettersi liberamente, gratuitamente alla rete. Un'altra notizia, più che altro una iniziativa che riguarda l'ambiente, porta la Sporta 2012, è tornata ieri la settimana nazionale per ridurre gli sprechi dal 14 al 22 aprile, l'evento che vuole offrire ancora una volta uno spunto per i consumatori che si dedicano al momento della spesa, invitando ciascuno di essi a modificare l'abitudine e adottare, anziché per i sacchetti monouso, per il trasporto degli acquisti fatti nei supermercati, sostituirli invece con borse resistenti e riutilizzabili sempre. Un'iniziativa di sostenibilità ambientale. La prossima notizia è un'altra iniziativa che viene questa volta dalla borsa italiana. C'è stata qualche giorno fa alla borsa di Londra il Charitable Day, sono stati raccolti 500.000 sterline in beneficenza tratte dalle commissioni delle negoziazioni. C'era un'iniziativa un po' più strutturale della borsa italiana che sarà presentata, è stata lanciata qualche giorno fa, partirà a settembre, City for Good. Si tratta di una piattaforma online su cui le aziende potranno offrire a titolo gratuito beni, servizi, strumenti di lavoro e formazione alle ONLUS, cioè alle associazioni di volontariato, che vi potranno visionare tutte le offerte e individuare quelle che rispondono alle loro esigenze. L'ultima notizia è un po' macabra, ma noi la leggiamo comunque, viene da Gornate. Insieme per sempre a Gornate, sì ai loculi vicini per le coppie di fatto. Leggiamo dal giornale di Varese, bene sì, coppie di fatto, dalla piccola Gornate Olona in provincia di Varese, un segnale di grande apertura. Il Consiglio Comunale ha deliberato una piccola ma sostanziale modifica al regolamento cimiteriale, così che conviventi eterosessuali o omosessuali, questa è la novità che siano, adesso potranno acquistare loculi vicini nel cimitero del paese. Non so quanto potrà essere consolatoria di fronte al tragico evento questa notizia, ma noi diciamo, se ci sono più diritti per tutti è sempre meglio. Aspettiamo le vostre segnalazioni al profilo Facebook del programma Si può fare trattino Radio 24, alla mail Si può fare @radio24.it durante la settimana, anche alla nostra segreteria telefonica. Un messaggio, un minuto per salvare l'Italia, 800 28 12 12. Questa settimana si è parlato molto di finanziamento pubblico dei partiti. Sentiamo questo ascoltatore. Beh, rimedi per migliorare la nostra economia, intanto partirei dalla testa. Giusto pagare le tasse, è giusto tutto quanto, però è anche giusto togliere il finanziamento pubblico dei partiti, perché non è giusto che un tot di persone fanno un partito che non è utile alla comunità con i soldi pubblici e poi alla fine prendono dei finanziamenti che non servono assolutamente a niente. Quindi autofinanziamento dei partiti oppure limitare molto il finanziamento pubblico dei partiti, e in questa maniera anche i politici cominceranno a capire bene cos'è la realtà. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Parliamo naturalmente di scuola, come la canzone di Chuck Berry ci ricorda, e parliamo di un progetto a metà tra ambiente e economia. Siamo a Capannori, in provincia di Lucca, un comune all'avanguardia per la gestione dei rifiuti che ha tra l'altro aderito alla rete internazionale per i rifiuti zero. Siamo all'istituto comprensivo di Lammari, il progetto si chiama Raccatta la carta. La scuola è senza soldi? Beh sì, naturalmente lo sappiamo, le attrezzature didattiche scarseggiano sempre più, e allora ecco che succede: usiamo quella risorsa che normalmente abbiamo sotto sotto il naso, ma non ce ne accorgiamo. Cioè, i rifiuti, in questo caso per esempio la carta, la raccogliamo, la vendiamo e facciamo due buone azioni, una per l'ambiente e una per le tasche della scuola. Salutiamo Leana Quirici, assessore alle politiche educative di Capannori. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Allora, voi di Capannori non state mai fermi, perché basta leggere sul sito del comune tutte le iniziative che fate. Io ne leggo alcune: pannolini ecologici, ecosagre, detersivi e latte alla spina, composteria pubblica, mense senza la plastica. Quindi in questo contesto di politiche per la sostenibilità ambientale, ci spieghi, ci racconti quest'ultima iniziativa nella quale il comune coordina, fa da mediatore, ma i protagonisti sono le scuole. Certamente. Allora, noi abbiamo recepito molto tempestivamente un decreto legislativo del dicembre 2010, il quale a sua volta recepiva una direttiva del Parlamento europeo, i quali entrambi sciolgono da ogni vincolo le scuole per la raccolta della carta. Quindi in questo specifico caso noi ci muoviamo all'interno di una normativa nazionale e anche europea. L'anno scorso in questo istituto comprensivo abbiamo attivato un processo educativo relativo al riutilizzo della carta, e quindi quest'anno siamo partiti grazie a questa convenzione che abbiamo stipulato con ASCIT, che è l'azienda consortile del raccolta e smaltimento dei rifiuti, grazie al centro rifiuti zero che il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto proprio qui a Capannori, e siamo arrivati appunto a stipulare questa convenzione grazie alla quale per 3 mesi noi sperimentalmente raccogliamo la carta nelle scuole. Sarà in una prima battuta semplicemente la carta prodotta, i rifiuti cartacei prodotti all'interno delle scuole, ma l'obiettivo fondamentale è quello di coinvolgere le famiglie degli studenti e anche tutti gli esercizi commerciali, la cittadinanza che afferisce intorno a questo istituto comprensivo. Ecco, questo sarebbe il punto d'arrivo. Quanto contate, insomma, perché 1.000 studenti, 1.000 famiglie non sono pochi come obiettivo, però anche la carta non avrà un prezzo altissimo. Quanto contate di raccogliere? Avete fatto qualche stima? No, così, giusto, per darvi un obiettivo e un po' di buon umore. No, stime non ne abbiamo fatte, perché al di là dell'introito di carattere economico questo progetto ha un valore sociale, educativo e culturale impagabile, e per noi è proprio importante attivare processi virtuosi di consapevolezza rispetto alla raccolta differenziata. Certo. Perché il nostro obiettivo è proprio quello di ridurre gli sprechi e anche la produzione di rifiuti. Ecco, come sono per esempio i bambini di fronte a queste iniziative? Cioè come accolgono il fatto che si parli di questi problemi? Immagino naturalmente divertendosi come sempre quando si parla di bambini e imparando anche qualche cosa, no? Vivendo tutto un po' come un'avventura, una scoperta, però sono cose che poi credo si porteranno dietro per tutta la vita. Certamente i bambini sono meravigliosi, non hanno sovrastrutture, imparano molto facilmente, si divertono tantissimo e sono contagiosi, perché ci danno quell'entusiasmo che potenzia la nostra determinazione. Semplificano molto, partecipano moltissimo e hanno la grandissima virtù di educare le famiglie, perché il problema siamo noi adulti, non tanto loro, i bambini. E poi sono responsabilizzati, perché a loro piace vedere che contribuiscono fattivamente al mantenimento del loro ambiente scolastico nel quale vivono comodamente. Resti con noi, Leana Quirici, assessore alle politiche educative del Comune di Capannori, perché voglio lanciare la domanda agli ascoltatori e voglio chiedere anche a lei se questa può essere una strada per un rimedio anticrisi, antitagli, tagli della Gelmini, ma non solo, di tutti i ministeri dell'istruzione che si sono succeduti negli ultimi decenni. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con l'assessore del Comune di Capannori, Leana Quirici. Io le voglio chiedere, può essere quello del risparmio, dell'efficienza energetica e della gestione consapevole dei rifiuti anche una via, una strada, un metodo di sopravvivenza per le scuole alle prese con i tagli della Gelmini e non solo? Lo è certamente, ma è anche una grande opportunità per il territorio, perché in questo modo i territori possono riappropriarsi veramente della scuola non soltanto come un'agenzia formativa, ma come un'agenzia sociale e culturale. Quindi attivano questi progetti qui, attivano il dialogo tra scuola e territorio. Non solo, nei momenti di grave crisi paradigmatica come quello epocale in cui noi stiamo vivendo, bisogna accogliere anche i lati negativi di questa sfida, come come delle opportunità. Quindi mettiamo in atto la fantasia e il buon senso e ce la facciamo. Grazie allora a Capannori, buona giornata, buon lavoro, buon raccatta la carta, la nuova iniziativa del Comune di Capannori che coinvolge le scuole. Noi oggi vogliamo proprio chiedere a voi genitori o insegnanti di raccontarci com'è la vostra scuola, insomma i metodi di sopravvivenza delle scuole dove vanno i vostri figli o dove siete insegnanti. Può essere per esempio la storia che abbiamo appena raccontato, una strada per percorrere anche altrove come rimedio antitagli. Insomma, loro hanno deciso di riciclare la carta. Voi come vi state organizzando nelle vostre scuole? 800 24 00 24. Meu som te cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador? Que não seguiu o louco balançando pelo? E que não riu com a risada de Andy? Ecco, questa bellissima canzone entriamo in un clima tropicale, anche se oggi a Milano il tempo è ancora brutto. Ci spostiamo in Brasile per una notizia di qualche giorno fa che ci riguarda. Il ministro dell'ambiente Clini ha inaugurato a Brasilia una sede dell'ambasciata realizzata con una concezione di sostenibilità ambientale, subito ribattezzata l'ambasciata verde. Coinvolte imprese italiane di punta nella green economy, e questo è senz'altro un colpo d'ala per l'immagine dell'Italia in questo grande paese. L'immagine del nostro paese che solitamente è legata magari ad altro, alla moda o insomma alla nostra cultura, ma non all'efficienza. Questa volta facciamo un po' i tedeschi, facciamo vedere anche noi che si può fare. Io lo chiedo all'ambasciatore d'Italia a Brasilia, Gerardo La Francesca. Buongiorno. Buongiorno. Che lo abbiamo svegliato un po' presto perché lì sono le 7:20 di mattina. Io ho detto così, facciamo un po' i tedeschi, cioè facciamo, è anche un po' un colpo d'immagine per noi, no? Poi ci spieghi anche, ci racconterà anche com'è fatta questa ambasciata verde, ambasciatore. Ma certamente noi possiamo fare i tedeschi, mi scusi se mi permetto di dirlo, forse possiamo fare ancora qualcosa di più o di meglio, perché siamo in grado di metterci quella fantasia e quella creatività che sono una nostra caratteristica specifica. L'ambasciata verde si compone in buona sostanza di due progetti: un impianto fotovoltaico, 410 pannelli sono stati installati sul tetto dell'ambasciata e già adesso, alla fine della prima fase di questa iniziativa, possiamo dire che ci consentono un risparmio del 17% e non finisce qui. Sì. E poi un impianto di fitodepurazione che è in pratica, visto da fuori, un grazioso giardinetto nel quale vengono fatte confluire tutte le acque prodotte dall'ambasciata, acque grigie e acque nere, che vengono depurate con un processo completamente naturale, con la conseguenza che noi non solo risparmiamo nel consumo di acqua perché riutilizziamo quello che è stato depurato, ma noi abbiamo praticamente chiuso lo sbocco alle fognature, per cui tutta l'acqua dell'ambasciata viene interamente riutilizzata. Noi lo utilizziamo per l'irrigazione del giardino e quindi non abbiamo più emissioni inquinanti. Ecco, insomma, io ho visto anche tra l'altro qualche foto, insomma è una cosa bella, futurista. Tra l'altro Brasilia è la città anche delle sperimentazioni architettoniche. Avete pannelli fotovoltaici ovunque, li avete messi anche sulla schiena dei dipendenti quando entrano a lavorare, ambasciatore, oppure no, intendo dire, ecco, ma questa iniziativa tra l'altro si colloca nel contesto di Rio più 20, no? Un importante evento che ci sarà in Brasile a 20 anni dal vertice del 92, e quindi l'Italia porterà questi contenuti, abbiamo letto bene, cioè un progetto sperimentale che fra l'altro lei ha voluto qualche anno fa, è partito qualche anno fa questo progetto, no? Sì, certamente. Intanto va detto che noi abbiamo la fortuna di operare in una sede stupenda che è dovuta al genio di Pierluigi Nervi. Questo forse per un caso, forse no, la rende particolarmente adatta all'applicazione di queste nuove tecnologie che mirano a realizzare un impatto minore sull'ambiente e anche dei risparmi. Ecco, io quello che vorrei posso dire sì. È questo. Intanto che si tratta di un progetto che si inserisce in un'iniziativa ben più ampia che quella di Farnesina Verde, no? Che coinvolge innanzitutto parte dal nostro Ministero degli Esteri e si realizza in varie sedi diplomatiche. Noi però siamo i primi, questo forse è giusto dirlo, e anche quelli che sono arrivati in una fase più avanzata. Credo che la caratteristica di questo progetto sia nel suo approccio di sostenibilità economica. Noi siamo partiti un po' così, un po' quasi per scherzo, ma soprattutto con l'idea di contenere le spese. Perché insomma, è il problema che abbiamo un po' tutti in questo periodo. E però di lì, dal contenere le spese, siamo arrivati a un progetto importante, la Farnesina Verde. Voi siete i primi a partire. Insomma, ambasciatore, noi la ringraziamo anche per la levataccia che ha fatto. Sono le 7:30 in Brasile. Poi vedremo, insomma, anche che futuro avrà questo esperimento dell'Ambasciata Verde di Brasilia. Grazie intanto. Grazie e buona giornata. Grazie a lei. Insomma, noi apprezziamo le parole dell'ambasciatore che ci ha raccontato questa iniziativa dell'Ambasciata Verde. Però ci vogliamo chiedere, ma insomma, qualcuno se n'è accorto in Brasile? Perché naturalmente abbiamo parlato di un colpo d'ala per l'immagine dell'Italia. Insomma, in un paese che è sempre più al centro della scena mondiale come il Brasile, un paese tra l'altro che, insomma, lo scopriamo, è anche a forte vocazione ambientalista. Ne vogliamo parlare con un nostro amico di Radio 24, Fernando Laterza, è un architetto italo-brasiliano, doppio passaporto italiano e brasiliano, insegnante alla Scuola di Belle Arti di San Paolo. Buongiorno Fernando. Buongiorno, salve. Anche per te, insomma, buongiorno doppio perché sono le 7:30 in Brasile, quindi magari uno di domenica mattina sperava di dormire, invece no, siamo arrivati noi. Sì, abbastanza presto. A parlare dell'Ambasciata Verde. Se ne è parlato un po' sui giornali, sulla stampa, in televisione di questa cosa, oppure insomma è un film che ci siamo fatti solo noi italiani? No, assolutamente, si è parlato, io particolarmente ho sentito non solo in TV, anche in radio, sì, insomma, una cosa che è una notizia che è arrivata pure in sede universitaria, è diventato già, insomma, molto velocemente un esempio di quegli edifici di cui diamo come esempio agli alunni. Nelle lezioni anche universitarie. Ma io ho detto che per l'Italia è un colpo d'immagine perché la nostra immagine solitamente è associata ad altro, alla cultura, alla moda, alla fantasia, alla creatività, ma non per esempio all'efficienza energetica. Cosa si associa adesso in questo periodo al nome Italia in Brasile? Berlusconi non c'è più. La seconda... No, non c'è più. Ve ne siete accorti? Cioè, di cosa si parla adesso a proposito dell'Italia in Brasile, Fernando? Si parla, insomma, sempre come riferimento di moda, di, insomma, Milano si sente comunque delle novità, insomma, il salone dei mobili, insomma, le cose che riguardano design e anche architettura. Di politica, insomma, sentiamo poco, qualcosa... Ci sente l'assenza di Berlusconi, insomma, Monti non fa notizia. No, esatto, non fa notizia. C'è un po' meno interesse, ma ecco, io dicevo, un paese, il Brasile, è all'avanguardia sui temi ambientali, no? Cioè cerchiamo di fare scuola in un paese dove però di queste cose si parla. Voi per esempio andate da anni con la benzina fatta dalla canna da zucchero, l'alcol. Sì, l'etanolo va forte già da un ventennio qui in Brasile, insomma non è esattamente una novità, anche, insomma, nonostante la discussione che esiste sul problema della competizione con la produzione di cibo, di alimenti. Oggi, insomma, per dare un'idea, il 3% del territorio italiano è quasi il territorio, anzi del territorio brasiliano, mi scusi, è quasi il territorio italiano, è di piantagione di canna da zucchero per la produzione a metà etanolo. E, insomma, questo esiste una discussione. Sul fatto che possa togliere un po' di spazio a cibo, però c'è da dire che combinato a questo l'idroelettrica che viene, insomma, che si risparmia, insomma, l'energia poi alla fine è un modello che è unico, più matrici abbiamo, più si risparmia l'ambiente. Insomma, chissà se lo importeremo mai anche in Europa, visto che tra l'altro la Fiat lì ha anche delle importanti sedi per la produzione di autovetture. Noi ringraziamo anche Fernando Alaterza, architetto di San Paolo, che ci ha tenuto compagnia e ci ha aiutato a spiegare questa notizia dell'ambasciata verde di Brasile. Si può fare cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, tra poco vi aspettiamo in diretta all'800 24 0024 per commentare le notizie di questa settimana. Abbiamo parlato dell'ambasciata verde di Brasilia, in Brasile, e anche della scuola di Capannori, di questa iniziativa metà tra ambiente e economia, raccatta la carta, coinvolti i ragazzi delle scuole, e insomma con il riciclo della carta si mettono in tasca anche un po' di soldini. Vi chiediamo se questo può essere anche un metodo anticrisi per le scuole italiane messe a dura prova dai tagli della Gelmini. 800 24 0024. Abbiamo in linea il primo ascoltatore, Maurizio D'Arieti, buongiorno. Buongiorno, io sono un medico fino a qualche tempo fa, adesso sono in pensione da 15 giorni, sono stato responsabile. Grazie, sono stato responsabile. Uno dei pochi che ce l'ha fatta, insomma, vabbè. Sono stato responsabile di un servizio di sanità pubblica a livello distrettuale dell'ASL di Rieti e volevo dire che al di là dell'encomiabilità dell'iniziativa di Brasilia, che non toglie niente affatto al questo sistema della fitodepurazione, che fra l'altro è antichissimo, la Gulaga Massima a Roma si depurava con le canne, insomma, è qui da noi già dagli anni 2000 una realtà in alcuni comuni e adesso addirittura nella grande maggioranza delle situazioni private che si trovano in campagna, che lei conoscerà sicuramente la Sabina. Quindi l'unico problema è proprio a livello pubblico è la carenza di finanziamenti che arrivano dalle regioni, quindi la buona volontà in fare queste buone prassi c'è anche da parte sia dei privati che ovviamente pagano da soli, ma anche delle amministrazioni, però mancano i soldi, lei dice, mancano Maurizio. Mancano i soldi, c'è una scarsità di finanziamento. È un problema atavico. Grazie Maurizio D'Arieti. Le ambasciate sicuramente, poi questo è un progetto che coinvolge le imprese italiane, dunque i finanziamenti non saranno mancati. La buona notizia secondo noi qui era duplice, cioè sia la buona pratica, lei ha parlato del caso della fitodepurazione, insomma dell'efficienza energetica, sia però anche un colpo positivo per l'immagine dell'Italia all'estero, che può avere anche un ritorno economico per le nostre aziende. 800 24 00 24, tra poco aspettiamo altri ascoltatori. Nerd è l'autore di questo brano del 2004 e di nerd, un vocabolo che viene dalla lingua inglese, parliamo quando vogliamo indicare qualcuno che passa tutto il tempo al computer escludendosi da tutte le altre relazioni sociali, il termine che sta diventando un sinonimo di sfigato, ma se è vero però che non tutti, anzi quasi mai, i nostri amici informatici sono degli sfigati, ci sono casi nei quali non lo è proprio, non è vero proprio per niente, perché per esempio questi informatici, questi amici della scienza e della tecnologia mettono le loro conoscenze al servizio di chi ha meno possibilità, insomma iniziative di solidarietà. È il caso di Informatici Senza Frontiere. Salutiamo il presidente dell'Associazione Informatici Senza Frontiere, Girolamo Botter, buongiorno. Buongiorno a lei. Che ieri si è riunito con i suoi amici associati nell'Assemblea Nazionale, nella città di Pisa, 300 soci, un'associazione nata nel 2005 con un software per la gestione dei servizi ospedalieri per l'Africa, che poi si è allargata a molte iniziative, dal recupero di computer, pezzi di computer che andrebbero buttati, voi assemblate, fate dei computer e li date in beneficenza, insomma a chi ne ha bisogno, esatto. Fate anche dei corsi di alfabetizzazione, in Italia, informatica in Italia e all'estero, insomma un sacco di belle cose. Di cosa avete parlato ieri? Quali sono le ultime vostre iniziative, Botter? Principalmente in Italia il progetto Navigare Insieme, di cui siamo partner con Telecom, che si propone di portare l'alfabetizzazione informatica a persone anziane over 60, mentre in Africa ha uno sviluppo e un'estensione di quel pacchetto di cui lei parlava prima, sì, che si chiama Open Hospital, che serve per la gestione di piccoli ospedali rurali africani. Prima di andare all'estero, di parlare bene dell'estero, che è importante l'iniziativa in Africa, mi incuriosisce questa cosa degli over 60, cioè c'è un problema con l'informatizzazione insomma, degli over 60, come lo state affrontando? Con delle palestre informatiche che abbiamo realizzato assieme con Telecom in 6 città in tutta Italia, e nei quali le persone anziane possono iscriversi. Beh, insomma, anziani over 60, pratica. Adesso non vorrei che qualcuno si offendesse, non è proprio anziani magari la parola, però insomma, over 60 già si individua una soglia per voi di persone che non hanno familiarità con i computer. Beh, insomma, sì, basta la guardarsi. Cosa proviene anche da uno studio sociologico, sì, del professor Delai, che è stato, sì, commissionato da Telecom e che ha individuato in questa soglia un momento di criticità per il quale è possibile che ci siano delle difficoltà nell'utilizzo di strumenti informatici. Poi le altre iniziative, per esempio quelle che vi portano in Africa, c'è una storia particolare che lei mi raccontava, perché insomma... fra i nostri soci sono persone, sì, anche che hanno raggiunto l'età pensionabile e che adesso lavorano regolarmente per la nostra Onlus, e alcuni di questi frequentano l'Africa con regolarità. Ce n'è uno in questo momento in Sud Sudan, si chiama Paolo Merlo, e ha un percorso di circa 6 mesi fra il Sud Sudan, la Repubblica Centroafricana e l'Uganda. Cioè lui praticamente si tratta di un pensionato che adesso mette se stesso a servizio dei vostri progetti, naturalmente avendo più tempo a disposizione, e si dedica a anima e corpo, e va distribuendo che cosa? Anche computer assemblati o informatizzazione, quindi corsi di informatizzazione? Principalmente alfabetizzazione informatica, perché il riutilizzo di computer che facciamo e portiamo anche in Africa sono progetti più complessi che richiedono, sì, anche una logistica un pochino più complicata, certo. Esattamente. Botter, il presidente, lo ricordiamo, dell'Associazione Informatici Senza Frontiere, una Onlus, 300 soci in 10 città italiane, insomma lo fate proprio per volontariato, per passione. Un'altra bella iniziativa riguarda questa volta i bambini di alcuni reparti pediatrici. Che cosa fate in questo caso? In questo caso, questo stiamo parlando in Italia, portiamo degli strumenti informatici, dei PC o smartphone, che possono consentire ai bambini che sono in reparti di lunga degenza di comunicare con la famiglia, con gli amici, con la scuola, e consentire quindi di continuare a essere in contatto con quello che sono i propri rapporti sociali, piuttosto che essere isolati in questi reparti. Abbiamo già 5 realizzazioni in Italia e tentiamo di promuovere questo progetto, perché dal punto di vista emozionale, sì, lo sentiamo molto molto forte. Senta, queste iniziative sono, ripetiamo, la vostra è un'associazione di volontariato, una Onlus, quindi avete insomma delle relazioni con le autorità, con i comuni, voglio dire con le istituzioni pubbliche o anche con delle aziende, però parliamo di volontariato. Ma lei se la sentirebbe invece di consigliare di un investimento in una formazione professionale proprio nel suo settore, così come settore in sviluppo e possibile un possibile campo di lavoro per i giovani che magari sono interessati, se non proprio ad azioni di volontariato come la vostra, a lavorare col vostro spirito in questo settore? Io penso di sì, perché comunque materiale dismesso dalle aziende, quindi hardware che è ancora utilizzabile, ce ne sono quantità enormi e spesso vanno a finire su discariche piuttosto che essere riutilizzati. D'altra parte il deficit nell'utilizzo di sistemi informatici e di comunicazione è qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto le persone anziane, ma non solo, altre persone disagiate, tipo detenuti o tipo ex tossicodipendenti, ai quali noi spesso portiamo corsi di alfabetizzazione informatica, e che quindi uno spazio per riutilizzare questo hardware e mettere a frutto la conoscenza di ragazzi che hanno dimestichezza con gli strumenti informatici, per fare formazione a persone che per disagio sociale o per età o per altri motivi non hanno queste capacità, penso che sia uno spazio che può consentire anche una certa attività economica che si sostenga dal punto di vista del profitto o comunque. Insomma, bene, allora una buona notizia nella buona notizia. Noi vi ringraziamo, l'Associazione Informatici Senza Frontiere, che ieri ha riunito la sua assemblea e i suoi 300 soci nella città di Pisa. Buona giornata, noi facciamo una pausa per il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. And bad mistakes. I've made a few. I've had my shields and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends. And we'll... Chi non vorrebbe essere un campione? Per esempio un campione dello sport, non so, un campione di tennis come Adriano Panatta, oppure un campione di volley come Andrea Lucchetta, o un campione di ginnastica artistica come Yuri Chechi, o del calcio come Ciccio Graziani. Ebbene, questi quattro campioni dello sport anche quest'anno si metteranno in gioco per un'iniziativa che li porterà nelle scuole italiane, un campione per amico. Ci saranno incontri in 10 piazze e 10 città italiane trasformate per l'occasione in arena sportiva, un'iniziativa col sostegno anche di Banca Generali, è giusto dirlo, protagonisti lo sport, questi quattro campioni, e poi naturalmente i ragazzi delle scuole, almeno i fortunati che riusciranno ad essere presenti. Salutiamo il capofila dell'iniziativa, Adriano Panatta. Buongiorno, buongiorno Adriano. Buongiorno a voi. Ecco, io mi metto nei panni di questi ragazzi, no? Dico, sono 10 le città toccate, sono molti anni che fate questa iniziativa, siete riusciti un po' a toccare tutte le piazze e tutte le città per accontentare un po' tutti? Ma questo è il 14° anno che facciamo un campione per amico. Ho iniziato io facendo solamente col tennis, poi dopo 3-4 anni l'ho allargato a altre discipline e siamo partiti in questa bella avventura insieme a Yuri, insieme a Ciccio e Andrea, e praticamente abbiamo giocato in più di 100 città italiane, praticamente. Ecco, giocando con 250.000 bambini più o meno, insomma. Ecco, perché poi l'importante di queste iniziative è che riescano davvero a essere, a coinvolgere, no? Al di là, insomma, dei grandi nomi che giustamente fanno da attrattiva, e riuscire poi proprio a coinvolgere i ragazzi delle scuole. Che iniziative, come sarà l'edizione di quest'anno? Cosa avete in testa, Adriano? Quest'anno iniziamo praticamente la settimana prossima, la prima tappa è Catania, poi andremo a Salerno, poi a Firenze, poi a Roma. E poi toccheremo, diciamo, la parte adriatica con Ancona e Pescara, Savona, Pavia, Udine e Vicenza, per cui saranno 10 tappe ancora quest'anno. Abbiamo molte adesioni delle scuole, logicamente più di 1.000-1.100 bambini non riusciamo a far giocare, perché noi non è che facciamo i testimoni che andiamo lì a farci una passeggiata, noi siamo in campo, calzoncini corti, magliette e via a giocare. Adesso calzoncini corti in questo periodo forse no, perché fa pure freddo. Sì. Però no, speriamo, però che per l'inizio loro. Sì. Cioè, la cosa che veramente siamo veramente orgogliosi è che in questi anni qua nessun bambino è andato via con me a tennis, almeno facendo ginnastica con Yuri o palleggiando con Ciccio e con Andrea. Questo qui diciamo, è il nostro punto di forza. Si divertono molto, logicamente sono molto piccoli, per cui non sanno neanche chi siamo noi, non lo sanno. Però glielo spiegano, insomma, le maestre, sì. I genitori, ci fanno un sacco di domande, noi cerchiamo logicamente di dare. Ma deve essere una festa dello sport, c'è molta allegria, c'è molta musica. Sì. Ecco, ma io mi medesimo, no? Anche nei panni di questi ragazzi, almeno ci provo, perché naturalmente quando poi quattro campioni come voi si sporcano le mani, detto tra virgolette ovviamente, si mettono lì a giocare, a divertirsi con loro e insomma tirarsi dietro un sacco di gente, l'iniziativa sicuramente ha un grande valore già per questa ragione. Ma parlando più in generale dello sport promosso proprio anche dai professionisti, Adriano, secondo te che credibilità può avere ancora oggi, diciamo, tra i ragazzi, quando poi sulle cronache basta girar pagina e dopo le cronache sportive si leggono il calcio scommesse, le scommesse clandestine, il doping e tutta questa roba qua? Cioè, si riesce ancora a mettere in collegamento lo sport come professionismo con questi valori positivi che voi poi portate in queste 10 piazze italiane? Ma è logico che questi episodi che succedono un po' in maniera ciclica, diciamo, perché nel calcio soprattutto con le scommesse, che è una cosa vergognosa, insomma. Adesso io spero veramente che nessun giocatore professionista sia implicato in queste cose, perché gente che guadagna una certa cifra si mette anche, come dire, a truffare una partita. È una cosa veramente doppiamente scandaloso, sì. No, quello sì, è ancora peggio, quasi, se posso dirlo, del doping, no? Che devo dire tocca certe discipline più che altre discipline, no? Senza adesso dare la colpa a certi sport. Però sono deviazioni che il danno che fanno soprattutto quei campioni che per certi ragazzi sono un po' il simbolo, anche a livello locale, no? Che li vedono come dei grandi protagonisti, degli eroi, così poi si scopre purtroppo. Ma comunque è una minoranza, adesso non dobbiamo neanche fare troppa, come dire, essere troppo negativi. Lo sport principalmente e sostanzialmente è sano e dà dei valori importanti, perché lo sport è fatto di regole. E senza le regole lo sport sarebbe il caos, e facendo fare sport ai bambini gli si insegna a rispettare le regole, e questo qui credo che sia probabilmente la cosa più importante che poi servirà per la vita futura. Per te, così giusto per inverdire un po', che ruolo ha avuto lo sport? Giusto dirlo, sei un campione, un grandissimo campione dello sport italiano, però insomma ti metti in gioco con questi ragazzi e magari ti rivedi un po' in loro. Tu hai fatto il tennis, poi hai fatto anche altri sport, quindi hai cercato, hai inseguito comunque sempre un qualcosa. Sì, ma io credo che lo sport, per esempio, nella scuola dovrebbe avere la stessa importanza della geografia. E dico geografia per non dire matematica. Per non come in America, no? Come succede, no, in altri paesi. Esatto, sì. Perché è formativa, perché è cultura. Purtroppo siamo ancora molto indietro. Noi a livello europeo, a livello mondiale, siamo probabilmente una delle nazioni più indietro per quanto riguarda l'attività sportiva nelle scuole, perché mancano anche gli impianti, perché mancano e c'è poco cultura. Ecco, io ultimamente ho sentito dire di questa proposta di eliminare i compiti a casa ai ragazzi, e io li vedevo come un incubo, i compiti a ecco, casa. Ecco, meno compiti e un pochino più di spazio all'attività sportiva. Io li farei fare il pomeriggio, attenzerei in qualche maniera le scuole il pomeriggio. Giustamente qualcuno ha detto, il sabato e la domenica non si lavora, allora perché i bambini devono fare i compiti? Va bene, con questa banalità chiudiamo qua. Grazie Adriano Panatta, grazie anche a Gian Gabriele Lombardo in assistenza alla redazione quest'oggi, a Paolo Corleoni in regia. Buona giornata, buona domenica, buona settimana anche da Alessio Maurizio.